Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 84 minuti e 40 secondi stasera all'Olimpico nel recupero tra Roma e Sampdoria. Perché? Perché si riparte dai 5 minuti e 20 secondi giocati prima che il diluvio costringesse l'arbitro a sospendere la partita. 120 invece di minuti ne sono occorsi all'Inter per eliminare il Genoa dalla Coppa Italia grazie anche ad una ingiusta superiorità numerica. Ma di tutto questo e altro ancora parleremo poi più avanti, perché adesso è il momento di dare, come preannunciato ieri, il bentornato a un vecchio amico come Gianni Galeone. Ciao Gale. Ciao Gigi, ciao. Oh, sul Corriere dello Sport di ieri Luciano Bertolani ha raccontato una storia davvero molto bella che adesso ricostruiamo insieme con il tuo aiuto e con la tua diretta partecipazione, cioè quella di tre allievi prediletti di Giovanni Galeone per l'appunto, che si stanno facendo largo e come in Serie A. In ordine alfabetico sono Allegri, che sta facendo le fortune del Cagliari, Gasperini, che sta facendo e come quelle del Genoa, e Giampaolo, brillante, più che brillante, fino ad ora a Siena. Allora, la prima domanda, Gale, è questa per noi che cominciamo a avere i capelli di un certo colore. È più la soddisfazione di aver fatto scuola o la malinconia perché oggi tocca a loro? No, malinconia no, anzi mi fa piacere, mi fa un po' meno piacere magari di essere famoso solo e ricordato solo perché ho degli allievi bravi, però sono molto contento per loro, ti assicuro che non sono malinconico, anche perché la mia scelta di lasciare il campo è stata determinata già 2 anni fa dopo l'ultima cosa a Udine, sì. Ho avuto altre possibilità per andare a allenare, no. Ho rifiutato, ormai il mio ruolo magari avrebbe potuto essere quello di fare un supervisore, una cosa di questo genere, magari con uno di questi miei, chiamiamoli tra virgolette, allievi alla guida della squadra. Ecco, cominciamo da lì, perché ho letto ovviamente anche di questa proposta che tu facesti all'Udinese, e cioè dicesti a Pozzo, adesso ce l'hai, insomma, adesso facciamo i nomi e i cognomi, ce l'hai detto adesso, 2 anni fa gli dicesti: io potrei fare il supervisore, cercare giocatori e far lavorare uno di questi miei allievi, che potevano essere per l'appunto Allegri o Gasperini o Giampaolo. È chiaro che oggi probabilmente questi tre che questa proposta oggi avrebbe un altro spessore, magari anche un'altra accoglienza, però avevi visto abbastanza lungo, mi pare. Veramente la proposta me la fece Pozzo. Ah, pure? Pure. Io feci i nomi, però mi diceva: non è che ogni anno dobbiamo cambiare allenatore, perché non creiamo una scuola nostra, perché non diamo un significato a tutta la struttura tecnica, compreso settori giovanili, eccetera, eccetera. Io ero più che soddisfatto di una scelta del genere. Io magari avrei proposto Gasperini, avrei proposto Giampaolo, avrei proposto Allegri, che tra parentesi loro già conoscevano comunque, perché non dormono neanche loro. Non dormono da piedi, come no, si dice. No. Senti Gale, prendiamoli uno per uno e raccontaci uno per uno, per l'appunto, la loro origine, cioè il loro rapporto con te, come è nato, come poi si è sviluppato, e una valutazione su quello che stanno facendo oggi. Scegli tu da chi cominciare. Ma il primo è Gasperini, perché esattamente 22 anni fa, 87, lo incontrai a Pescara, reduce da una retrocessione con il Pescara guidato da Catuzzi, che peraltro era un ottimo allenatore, sì. Insegnava già allora nel Bari, ancora anni prima, a giocare a zona, a giocare bene a calcio, eccetera eccetera, ambiente bruttissimo, ambiente senza una lira, squadra retrocessa, delusioni e compagnia bella. Io trovai questa squadra e con questa squadra dalla Serie C andammo direttamente in Serie A per la rinuncia poi del Palermo. Non la rinuncia, la cancellazione del Palermo da parte della Comisoc, no? Pescara ripescato, Pescara con le riserve dell'anno prima direttamente in Serie A. Il Gasperini era il mio capitano, non regista, però era quello che in campo, anche durante gli allenamenti, era il più attento, quello che motivava gli altri, ed era anche il più bravo, diciamo la verità, tatticamente era il più bravo di tutti, assolutamente. Quindi una specie di allenatore in campo che tu hai raccontato anche un po' rompiballe, se non capisco male. Dai, nel no, senso era un po' per Malosetto, è un acquario, sai, lui è un 26 gennaio, il giorno dopo di me, gli acquari li conosco abbastanza bene. Conosci la razza. Sono bravi, carattere, però ogni tanto sono per Malosetto, ogni tanto, sì. Però attitudini già sin da allora, diciamo, alla direzione in campo, insomma, alla gestione di uomini, manovra e finché ce n'è. Sì, sì, direi assolutamente di sì, anche perché l'anno dopo in Serie A io avevo preso un giocatore formidabile, secondo me, che era Sliskovic, e quindi sì, allora io non facevo tanti turnover, giocavo con la squadra che in pratica conoscevi a memoria, devi dire a memoria, no? E quindi, avendo preso questo Sliskovic, pensavo di poter rinunciare a Gasperini, anzi glielo dissi. Lui mi dice: no, no, mister, io resto, vedrà che io faccio le mie partite. Proprio molto, molto concreto, molto tosto, molto duro, ed effettivamente anche con gente come Leo Junior, come Sliskovic, che erano effettivamente dei grandi campioni, eccetera, eccetera. Ebbene, ti devo dire che lui in campo, a parte che Leo era un professionista strepitoso, ma lui in campo ancora si faceva sentire, ancora dettava tempi, dettava regole, dettava cose, cioè era veramente un allenatore in campo, soprattutto capiva molto bene la partita e quindi anche con i compagni quali sfruttare in quel momento, se vedeva che c'era una superiorità da una parte del campo, insistere più da una parte piuttosto che dall'altra, cioè era uno che vedeva la partita, la leggeva bene. Che cosa ritrovi del Gasperini di allora in quello di oggi che sta facendo così bene a Genova? Mi piace la disposizione in campo, la copertura degli spazi, e soprattutto ritrovo, per quello che era il mio concetto che cercavo di spiegare allora, sempre il fatto di dover giocare la partita, non di doverla subire. In ogni caso di provare sempre a intensirire l'avversario, a tenere una certa filosofia di gioco, in maniera tale che quando incontravi le squadre al tuo livello o a livello inferiore avevi molte più probabilità di vincere, che non modificare ogni volta atteggiamento e comportamento. Con la grande hai tantissime possibilità di perdere, quando vinci fai il grande colpo dell'anno, e se perdi era quello normale che doveva succedere, ma se tu modifichi ogni tanto e poi sei costretto a dover vincere per forza a quel punto le gare con le dirette concorrenti, allora è difficile che tu vada avanti, molto più difficile. È una cosa che io vedo in tutti e tre questi ragazzotti qua. Penso che sia la cosa che probabilmente mi fa più piacere, che perlomeno penso che l'abbiano appreso da me questa cosa. Poi, per carità, loro tatticamente, tecnicamente, eccetera, sono molto bravi, sono andati avanti per conto loro, però se qualcosa di buono posso aver fatto, questa credo che sia una delle cose. Questa convinzione di non rinunciare mai a priori. Sì, come se vedi giocare le squadre, sia il Cagliari, che l'avrei vista pur contro l'Inter. Come no? Sia il Siena. Anche Siena a Torino, anche sullo 0-0. Sì, è verissimo. Sì, loro giocano, escono fuori con la palla, non sbattono via il pallone, non è che la consegnano agli avversari tanto facilmente, non si fanno schiacciare, propongono. È chiaro che poi, sai, la forza fisica, il valore degli avversari, eccetera, eccetera, se tu li subisci e basta, io credo che hai molte più probabilità di perderla la partita. Loro si propongono, e questa è una cosa molto piacevole anche per il calcio in generale, direi io. Assolutamente, al di là poi delle fortune, ragazzi, individuali di Siena, di Cagliari e di, e di Genova, non c'è dubbio. Andiamo da Giampaolo. Come è nato il rapporto invece con lui? Ma con lui l'ho trovato a Pescara, io avevo suo fratello come giocatore, che era un buon giocatore, svelto, rapido, un giocatore d'area da rigore. Lui tecnicamente era più bravo, però aveva avuto un sacco di incidenti, è un ragazzo fantastico, a parte che tutti e tre questi ragazzi sono ragazzi veramente formidabili, bravissimi come professionisti, ma soprattutto ragazzi seri, onesti, un po' diversi uno dall'altro, però ecco, Marco era qui, faceva il team manager, roba del genere, qualcosa del genere. Io lo portai in campo, gli diedi la possibilità di allenare, perché la cosa che penso abbiano potuto imparare da me è che quando io i miei collaboratori, che non chiamo secondi ma chiamo collaboratori, io sul campo li faccio lavorare. Cioè non è che, sai, gli dico: va, prenditi quei due, vai dietro la porta, raccatta i palloni che tirano gli attaccanti e cose del genere, porta il sacco, capito? Cioè loro preparano l'allenamento in base a quelle che sono le esercitazioni della giornata che io magari stabilisco, capito? E allora dopo lavorano sul campo. Lavorano loro, e tu osservi. Certo. Lavorano sul campo e vedi i tempi di lavoro, vedi i tempi morti che hanno, che invece non hanno. Hai capito? Vedi delle piccole cose, che poi sono grandi cose, che ti fanno capire, ti fanno intuire che quello diventa allenatore. E Marco Giampaolo diventa, così, dopo due giorni che lo avevo nel corso che dice un giornalista, ma questo diventa allenatore. Sì. Questo è matematico che diventa allenatore, perché ha i ritmi giusti, ha i tempi giusti, sa comportarsi con i giocatori, è tranquillo, però è deciso, ha carisma. Capito? Cioè, senza urlare si fa intendere. Tu le vedi queste piccole cose, non ha bisogno di arrabbiarsi per far fare un'esercitazione. Scherza fino al momento in cui inizia l'allenamento vero. Cioè, sono cose che sono particolari, che ti fanno capire. Certo, poi tatticamente, così, è uno bravo che legge bene la partita, e anche questa comune a tutti e tre questi ragazzotti. Questi ragazzotti alla fine della partita, quando rilasciano dichiarazioni, Gigi, è uno spettacolo, è una cosa diversa, capito? Adesso, fino all'anno scorso, gli allenatori, quando le loro squadre vincevano, erano perché erano stati intensi. La grande intensità, quando perdevano, erano stati puniti dagli episodi. Era sempre così, la valutazione della partita era questa. Giocando palle, comunque era una monotonia allucinante, no? Tu vedi adesso questi ragazzotti parlano, adesso è venuta fuori le cose importanti. Sì, importanti. Fanno cose importanti. È tutto importante. Loro hanno giocatori importanti, noi abbiamo sviluppato una difesa importante, adesso è tutto importante. Certo. Prova a sentire parlare questi tre ragazzi. Ad ascoltare le loro dichiarazioni alla fine di una partita. Effettivamente sono un po' meno ciclostilati. Ti danno una lettura della partita giusta, anche se, vabbè, non è proprio un'analisi, perché non può essere Poi magari veloce. È anche dal loro punto di vista, però intanto è qualcosa, è una lettura un po' più originale. Su questo non c'è dubbio, gliene va dato atto. Senti, arriviamo al tuo pupillo, perché insomma dei tre c'è poco da fare. Il tuo occhio destro è sempre stato Allegri, già da giocatore direi, no? Beh, il giocatore è più forte degli altri sicuramente, nettamente, senza alcun dubbio. Nettamente. Forte, un po' più matto anche magari? Un po' più estroso, comuni che uno si porta dietro, perché lui è livornese, lui scherza, ride eccetera, ma per dirti un particolare, quando io andai a Perugia al posto di Nevoldino, chiamato da Gaucci, eravamo penultimi in classifica, il presidente mi fece subito il regalo di prendermi Allegri, che era andato a finire in Serie C a Padova. Ecco, lui arrivò a Perugia penultimi in classifica, ti dico, non reduci da un 5-0 con l'Ancona, roba del genere. Sì. Allora, lui dopo una settimana, sai chi comandava lì a Perugia? Massimiliano Allegri, lui e Chico Giunti. Non c'era niente da fare, lui era diventato il leader, cioè era diventato, lo avevano già eletto leader dopo una settimana che era lì. E vincemmo il campionato di Serie B e andammo in Serie A quell'anno lì. Certo. Quindi ti dico, un ragazzo con una grandissima personalità, chiaro che scherza, cosa, ti ripeto, un livornese, quindi c'ha la battuta facile, sveglio, è brillante, tutte queste robe qui, non disdegna la bella vita, ha avuto qualche piccolo episodio. Ecco, sì, però è un ragazzo sicuramente intelligente, un grande giocatore, e come Gasperini un grande lettore della partita quando già giocava, grandissimo, un fenomeno, addirittura litigava con qualche compagno perché diceva ma abbiamo giocato sulla destra, a me che me frega, diceva, se Pagano sulla destra salta 10 volte l'avversario su 10, a me che me frega di giocare a sinistra, perché io la palla e sfrutto quel giorno quel giocatore lì. La volta che sarai tu a saltare l'uomo, gli dice a Briaschi, darò sempre la palla a te. Così imparava a mettersi Briaschi. Che tanto per dire, capisci? Cioè, che rendeva la partita, bravo. E poi ha come delle, lui rispetto agli altri, diciamo, ha qualche intuizione in più, ecco, qualche colpo di genio, no? Così, ecco. Mentre gli altri sono molto più tranquilli, ecco, sono bravi nel preparare la partita, difficilmente ti danno vantaggi, tutte queste cose qua. Però nel momento del colpo, ecco, il colpo lo riconosco forse più a Massimo. Più a Massimo. Più a Massimiliano, sì. Più a Massimiliano Allegri. Facciamo un intervallo, Gale, di un minuto o due circa per ascoltare gli aggiornamenti dalle strade. Poi continuiamo con Allegri e poi ovviamente con con te ai microfoni 3-4 domande di quelle un po' più che escono dai tuoi tre prediletti, insomma, è inevitabile. Beh, sono fioccati tanti ma tanti messaggi di bentornato a Galeone, con molte domande anche per lui, con una bella osservazione firmata Marco Manzardo che certamente gli farà piacere. Galeone sta a Mourinho come il Barolo sta al, e poi c'è il nome di un vinaccio che non sto a nominare per non far pubblicità ai vinacci. Barolo, che non è vero, perché il Mourinho del Porto era un ottimo allenatore. Mourinho del Chelsea era un discreto allenatore. Mourinho dell'Inter? L'Inter è una roba così, un grande comunicatore. E per il momento, comunque, guarda, se mi permetti ti voglio dire una cosa. Guarda che lavorare con questi ragazzi qua per me è stata la mia fortuna, ti assicuro, così come lo è stato per altri aiuti che ho avuto, tipo Mondonico, tipo Reia, tipo Trombetta, che ha fatto addirittura la Champions League, come no. Che è il sogno di tutti gli allenatori, ha battuto la Roma, ha giocato col Chelsea, capito? Cioè, io tengo a dire che non sono io che sono il loro maestro, eccetera, eccetera. Cioè, loro sono stati un po' la mia fortuna, perché avere dei ragazzi che lavorano così bene, che sono capaci di portare in campo quelle che sono le tue idee, le tue cose, eccetera, far sviluppare la squadra un lavoro senza che tu debba intervenire ogni 2 secondi, ogni 5 secondi, è la fortuna per un allenatore. Questo è oggettivamente vero. Poi è sempre un'andata e ritorno in questi casi, ma insomma è giusto sottolineare anche i meriti loro e la fortuna di chi, non solo di chi si trova un buon insegnante, ma anche di un insegnante che si trova dei brani allievi. Certo, capaci di spugnare, di rispettare, ma anche di far valere la loro personalità. Il calcio che sabato scorso il Cagliari ha giocato a San Siro è un calcio di primissima qualità da tutti i punti di vista, non solo da quello del coraggio nella fase decisiva. È sembrato a chi ha la memoria un po' lunga proprio di rivedere quella volta che il Pescara neopromosso in Serie A arrivò a San Siro e fece quel colpo che è rimasto nella storia. Sì, fu un 2-0, no? Un 2-0 prima, come debutto in Serie A, non malissimo. No, direi. Anche perché debutto per me anche in Serie A, e no? Come quindi, no? Sai, non un debutto da niente. Però sì, effettivamente io sabato sera sono stato a San Siro insieme alla compagna di Allegri, alla moglie del preparatore, al direttore sportivo del Cagliari, eccetera, mi hanno accolto benissimo. Poi ai cambi di Mourinho me ne sono andato, ai due cambi di Mourinho me ne sono andato, cercavano di trattenermi, no, resti qui, si porta buono qua e là. Non ho fatto in tempo a arrivare fuori dallo stadio. 2 minuti dopo ho sentito l'urlo del pari di Ibrahimovic, poi alla televisione ho seguito i gol sbagliati da, soprattutto quello di Acqua Fresca, di Biondini prima, che poteva fare il 2-0. E finiva come quella volta. Me ne sono andato dicendo, beh, se Max adesso, la squadra c'ha un po' di qualità e Max non ha FIFA, cioè la partita la vince 3-0. Ci può stare 2-3-0, ma in effetti sul piano d'occasioni così. In così effetti andare. Dopo aver visto sì cosa ci poteva stare. Credo che l'abbia detto anche Mourinho, tra parentesi. Sì, sì, no, ma devo aver letto su un'intervista qualcosa del alla genere. Fine lo ha molto lealmente riconosciuto, anche perché l'hai detto prima, è un grande comunicatore, no? Sì, sì, certo. No, cioè, per la lettura della partita io con Mourinho sono quasi sempre d'accordo, ti dirò. Non è che uno che sbatte lì e dice abbiamo giocato bene, abbiamo giocato benissimo, qua e là, bim bum. Ha una lettura della partita abbastanza giusta, direi. Poi vabbè, che difende i suoi è normale, però li attacca anche ogni tanto, parla tranquillamente. Cioè, io vedo che Mourinho per adesso, a mio avviso, ti dico, questa è la mia idea, lui organizza, come ha sempre ben organizzato, la fase difensiva. Infatti credo che l'Inter sia una delle squadre che ha subito meno gol in campionato. Sì, sì, vero. Però per quello che riguarda la fase offensiva, lui sì, dice, parla, ma cioè non puoi avere una fase offensiva precisa quando tu schieri 5 punte. Cioè 5 punte, ma me ne frega a me. Cioè, io quando giocavo in Serie B giocavo con Pagano, questi qua, quando si giocava con i 2 marcatori, il fluidificante e tutte quelle storie lì, io cercavo di vincere molto spesso, le mie squadre vincevano le partite giocando sul loro fulmificante. Se ne frega, lui veniva avanti, voglio vedere se fa più danni lui che viene avanti o io che lascio Pagano oltre la metà campo. Poi vediamo, tu fai il cross, due vanno oltre la traversa, tre li piglia il portiere e poi quando parte Pagano ti mette nelle pesti, e così tu giochi con cinque attaccanti, sì, ma negli spazi stretti cinque attaccanti non servono a niente, bastano quattro difensori. E se hai una squadra che non butta via il pallone e quindi ti consente altri cross, altre cose eccetera, ma esce fuori, come ha fatto il Cagliari a San Siro, ha la possibilità di farti male, perché due giocatori contro tre difensori con un inserimento di un terzo giocatore fanno più danni in spazio che non cinque attaccanti in spazi brevi. Che vanno a intasarsi, sicuro. Senti, a proposito di sovrannumeri, mi viene in mente questo elenco. Pato, Kakà, Ronaldinho, Beckham, Seedorf, Pirlo. Ora, è tanto o è troppo secondo te? È quasi troppo. Però sai, il Milan ha questa concezione di mantenere il possesso della palla, di giocare a ritmi non elevatissimi, con molta tecnica, poi quando arrivano negli ultimi 20 metri inventare il flipper, no? Fanno tutti di tuff e quello che succede, no? Di davanti. Però loro tengono bassi i ritmi della squadra e soprattutto mantengono il possesso palla, rifacendosi un po' a quello che era il dettame del grande, vecchio, unico, grandissimo maestro che era Nils Dino, no? Certo. Che diceva, fino a quando la palla ce l'abbiamo noi... Difficile che prendiamo gol. Ecco, è più difficile che prendiamo gol. Ecco, Ancelotti copia un po' questa teoria, questo teorema, che a me tra parentesi non piaceva tantissimo, per esempio, perché a qualcuno piace. Io per esempio voglio la soluzione veloce, la soluzione immediata, cercare di dare lo scacco matto in pochissime mosse senza tanto girarci intorno, però non è da scartare anche la soluzione di tenere tantissimo la palla, fare possesso di palla eccetera. Il Milan fa questo e fino a quando ha giocatori di qualità e di piede può farlo. Se trovo una squadra agguerrita, che sa fare bene pressing tipo Genoa, tipo queste squadre qua appunto, che coprono bene gli spazi, che sanno saltarti addosso, che sanno conquistare la palla, può metterli un po' in difficoltà, anche perché la difesa del Milan non è più quella di una volta. Non è più quella di una, o meglio, è quella di una volta dal punto di vista anagrafico, e quindi questo è il problema. Il tempo passa molto piacevolmente, ma passa. Devo ridurre tutti gli argomenti che avevo a non più di un paio. Il primo è per competenza territoriale, anche se adesso so che sei nella tua amata Pescara. Parlo di Udine. Cosa succede a Udine? Ti dico la verità, non lo so, una squadra che giocava molto bene, aveva dovuto fare a meno di giocatori secondo me importantissimi, soprattutto in fase difensiva, parlo di Zapata e parlo di Felipe in special modo. Sì. Quelli che vanno a sostituirla sono giocatori che hanno una percentuale di errore molto più alta, soprattutto per quello che riguarda la fase difensiva, e quindi anche i centrocampisti vengono a soffrire di questo. In più ha giocato molto molto molto con gli stessi uomini per tantissimi tempi, comprese coppe, cose, compagnia bella, e probabilmente qualcuno adesso sta tirando il fiato. È una squadra che quando sta bene può far male, perché in contropiede con Pepe, Quagliarella, Di Natale e con il piede di D'Agostino sono molto bravi, però D'Agostino deve essere sorretto da due mediani che sono in gran forma. Se appena appena i due mediani non rubano, D'Agostino ne risente se deve rincorrere. Certo. E quindi un po' sono tanti meccanismi che sono venuti a mancare, la difesa ha messo di più sotto pressione, ha dei margini di errori molto più alti che non quando gioca con i titolari, e quindi subisce un sacco di gol ed è modificata la squadra, e adesso hanno perso la loro tranquillità, la loro serenità, e quindi non riescono neanche tanto a sviluppare il gioco. E domenica gli è andata anche bene con la Samp, insomma. Care, io chiuderei così. Tu pensi mai, secondo me ci pensi abbastanza spesso, a che squadra avresti potuto allenare se la lingua, anziché per sferzare, no? come hai fatto anche oggi, giustamente, perché la libertà di espressione è il primo diritto, è il primo dovere ed è anche il primo piacere per chi la pensa come noi. Se questa lingua tu l'avessi usata per dire a fine partita, che appunto per usare l'aggettivo importante, no? Come dicevi prima, oppure magari anche per altri usi, come tanti tuoi colleghi hanno fatto in passato e anche nel presente, non sto nemmeno a specificare quali perché sono abbastanza chiari. Ti viene mai in mente di dire, bah, forse con qualche parola di meno, con qualche... no, con un po' di autocontrollo, chissà chi sarei andato a... Ma vedi, vicino ci sono andato, vicino effettivamente ci sono andato qualche volta, poi beh, le cose sono girate, nonostante parlassi tranquillamente a ruota libera, mi ricordo, le cose forse che mi sono mancate, la curiosità della grande squadra, capito? Sì. Perché dicevano, tu quando vai nella grande squadra, i grandi campioni, eccetera, eccetera, io dicevo sempre, ma con i grandi campioni non ci sono problemi, ci sono problemi con quelli che pensano di essere certo. I grandi campioni. E già questo spaventava l'interlocutore, ecco. Ricordo il Napoli di Maradona, quando il signor Luciano mi telefonava e mi diceva, il piccoletto ti vuole a tutti i costi, tu devi di qua e là e su e giù, non devi andare alla Roma di Viola, tutte quelle storie lì. E soprattutto l'Inter intorno agli anni 94, ecco, 95, quegli anni lì. I primi tempi. Che sembrava proprio che fosse cosa ormai fatta. Sì, ti ripeto, più che altro per una curiosità, sai, c'è la grande città, grandi giornalisti, senza togliere nulla a Perugia, Pescara, cose, eccetera. Provare a misurarsi con un salto. Provare a misurarsi, sai, con delle persone che ti possono anche... attaccare o mettere in crisi o proporre cose o farti venire nuove idee, chi lo sa, capito? Certo. Allora così, questa curiosità mi è venuta a mancare, per il resto guarda, va bene, sono così felicissimo di essere stato accolto nella maniera in cui sono stato accolto quando sono arrivato alla massima serie. Caro Aquario, un abbraccio affettuoso. Grazie Gigi, grazie di tutto. Ciao, Gare, con gli auguri anticipati, 25 gennaio. Sono 68. Grazie ancora a Gianni Galeone per questa chiacchierata col cuore in mano, come si direbbe a Milano, ma con tanto raziocinio e tanti argomenti anche, no? Di quelli che appassionano e che fanno discutere. Vi dico i complimenti che sono fioccati per Giovanni Galeone, per il suo lungo intervento, la sua lunga conversazione, sia per iscritto che con gli sms, sia alla mail che ho appena scaricato. Io non vorrei, poi glieli trasmetterò perché certamente gli faranno piacere, ma ne vorrei leggere uno in particolare perché lo trovo più lusinghiero di tutti. Michele da Bergamo scrive: Garanzini, ripeta spesso una trasmissione così, mi ha catturato talmente l'attenzione da farmi sbagliare strada. Ora mi spiace Michele, spero abbia già fatto retromarcia a quest'ora, però questo credo sia il migliore dei complimenti possibili. Qualcun altro ha scritto per contestare l'aggettivo ingiusto che ho usato all'inizio, prima di parlare con Giovanni Galeone, a proposito della superiorità numerica dell'Inter di ieri sera. Ingiusto non per l'espulsione del difensore genoano, che era sacrosanto, ingiusto perché andava espulso certamente anche Montari non molto tempo più tardi, sicché la superiorità numerica dell'Inter sarebbe durata quel 20 minuti, mi pare siano passati tra l'uno e l'altro episodio, ma questi sono i soliti dettagli, le solite miserie di tutti i giorni. Kakà vuole invecchiare nel Milan, ci informa l'Ansa. La sua risposta all'indomani dell'offerta faraonica del Manchester City per andare a giocare in Inghilterra, la risposta di Kakà è: il mio obiettivo è quello di invecchiare al Milan, nel senso di diventare in futuro il capitano di questa squadra. So che ci sono gerarchie e quindi tocca adesso a Maldini e domani ad Ambrosini, ma poi chissà che non possa toccare a me. C'è in linea Paolo da Torino, buongiorno. Ah, buongiorno. Sento nel riferimento agli aiuti che può avere l'Inter dagli arbitri. Torniamo sulla terra. No, è una proposta che vorrei fare per una puntata in futuro. E per tornare sulla terra subito dopo quella mezz'ora aerea di Galeone. Sì. Perché non invitate Bobo Vieri, così vi racconta cosa vuol dire finire sotto le grinfie della Telecom di Tronchetti Provera, così sente, dato che c'è una causa in corso, potrebbe anche essere un motivo per una puntata. Se c'è una causa in corso potrebbe a maggior ragione non essere un motivo per una puntata. Bobo Vieri ci potrebbe anche raccontare di questo, credo però che sarebbe interessante anche un altro versante, forse di più dal mio punto di vista, e cioè quello di farci raccontare della sua depressione, perché mi ha molto colpito e credo abbia colpito le popolazioni di tutto il mondo pensare che Vieri a causa di quella vicenda cadde addirittura in depressione, anche perché, come si ricorderà, era stato scaricato dall'Inter ed evidentemente quella buona uscita di 8-10 milioni di euro di Moratti non lo aveva corroborato abbastanza. Quindi credo che questo dramma umano effettivamente meriterebbe di essere approfondito. Ripeto, siamo subito tornati sulla terra grazie a Paolo da Torino. Alberto da Reggio Emilia, buongiorno. Ah, buongiorno Gigi, sempre un piacere fare due chiacchiere con lei. Niente, io sono un tifoso juventino. Sì. Le chiedevo una cosa. Secondo lei come mai Giovinco non gioca? Tutto qui. Come mai Giovinco non gioca? Sa, è una domanda che rimane attuale. Certo, lo era di più a inizio anno, quando la Juventus tentava e quando ha avuto anche una crisi, insomma, non poi così lunga come qualcuno ha voluto descrivere, ma la sua bella crisetta l'ha avuta. Allora mi pare che fosse una domanda di grande attualità. Adesso lo è meno, oggettivamente, perché non mi sembra che... Da un lato, A, non mi sembra che la Juventus non funzioni, B, non mi sembra che i giocatori al cui posto potrebbe giocare Giovinco, non mi sembra che non stiano facendo bene o benissimo. Questo è il problema dei giovani e dei ragazzi che devono o che vogliono emergere. Lo spazio per loro non c'è, insomma, quando io sento che qualcuno di loro, non so, il Balotelli di oggi per esempio, vuole andare a giocare in provincia pur di giocare, li capisco in pieno. Non c'è, credo che non ci sia né colpa, non c'è né trucco né inganno da una parte e dall'altra, ci sono circostanze che poi producono situazioni di questo genere. Marco ha chiamato la Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Senta, volevo sapere, sempre parlando della Juventus, che cosa ne pensava di Poulsen, questo giocatore in cui la testata la Juve ha speso 10 milioni di euro, secondo me invani, visto anche il centrocampo che ha la Juventus con i Sissokoi, Marchisio, gli Zanetti, anche lo stesso Thiago, mi sembra comunque sia molto superiore a Poulsen. Ecco, volevo una sua impressione, se forse non sarebbe meglio, visto il mercato che c'è ora a gennaio, che la Juventus lo desse via e acquistasse al limite un altro giocatore, anche un difensore. Non ho idea, Marco. Gli inizi di stagione di Poulsen erano stati da brillanti a molto brillanti, poi ha avuto una flessione, poi si è infortunato. Adesso mi pare che sia ingiudicabile, perché da troppo tempo non lo si vede. I commenti alla partita di Coppa Italia di ieri sera. Mourinho. Adriano ha fatto il suo lavoro, ancora con un po' dei problemi fisici, si vede chiaramente che ha 2, 3, 4 kg in più, si vede che gli manca un po' la velocità, la fiducia, però sono soddisfatto del suo lavoro, ma anche di tutti gli altri, sono veramente soddisfatto. Per tornare alle osservazioni di Galeone di prima, che Mourinho sia banale, no, questo non direi proprio, perché insomma i 3-4 kg in più non sono abituali tra i frequentatori dell'aggettivo importante o degli episodi, no? O delle partite decise solo dagli episodi che, insomma, che pullulano nel calcio di casa nostra. 800 24 00 24, vi ricordo il numero per intervenire in diretta. C'è un intervento non in diretta registrato stamane, ma insomma molto significativo, di Lippi, che ha dichiarato: la disponibilità di Francesco Totti a tornare in nazionale è sicuramente una dimostrazione di serietà, però decido io, e credo anche che sia giusto, sacrosanto così. Poi la vicenda del presidente del Real Madrid, di Calderón, di cui vi ho parlato ieri, dei brogli nell'ultima elezione. Questo è un gialletto non da poco, direi abbastanza interessante. Però sentirei prima ancora qualche voce di Coppa, per esempio il commento di Gasperini, invece ne abbiamo parlato a lungo prima con Galeone, il commento di Gasperini all'eliminazione del Genoa di ieri sera. È stata una partita condizionata da questa espulsione, è stata anche rovinata, poi non lo so nell'episodio specifico. Noi abbiamo avuto un'occasione con Van den Borch, addirittura ha saltato il portiere, se va giù lì magari c'è rigore espulsione per noi, sono episodi. Poi abbiamo difeso, c'è stati anche bravi sotto certi aspetti, però una partita che è difficile da giudicare. E siamo riusciti a difendersi sempre con ordine, abbiamo fatto, poi abbiamo raggiunto anche il pareggio quando la partita era già. È chiaro che queste non sono le migliori gare, questi episodi finiscono per rovinare le gare ed è un peccato. Sì, anche qua la chiave di lettura della partita è quella di cui parlava prima Galeone. È una partita, quella di ieri sera, che di episodi, ma stavolta episodi sul serio ne ha avuti parecchi, di non facile decifrazione. Non c'è dubbio che l'arbitro Gavali Conegliano, a differenza di quello di sabato, che era stato, mi pare, Pierpaoli, non abbia avuto la mano felice, il fischietto felice nel valutarne alcuni, uno in particolare, ripeto, quello che riguarda Muntari più ancora degli altri. Paolo Rabiella, battuta direi inevitabile, perché in effetti quando ho letto il titolo di questa notizia ANSA, cioè Kakà voglio invecchiare nel Milan, Paolo Rabiella dice: beh, vorrà invecchiare nel Milan per sentirsi più a suo agio con i compagni, e ovviamente la battuta è riferita all'età media e può essere giustificabile indubbiamente. Vigilia quella di oggi anche di una serata di campionato, non soltanto di Coppa. Roma-Sampdoria, vi ripeto, partono dal quinto minuto e 20 secondi, perché si recupera soltanto il tempo non... cioè si parte dai minuti giocati, quelli ormai sono acquisiti, e quindi per le due squadre, per vincere la partita, i minuti a disposizione non sono 90 più recuperi, ma sono 84 e 20 più recuperi. Un dettaglio, ma è curioso, perché in Italia è un regolamento che all'estero vige da tempo, in Italia è entrato in vigore da poco e siamo ancora sempre ai primi esperimenti di questo genere. Sentiamo Mexes anche su problemi di mercato alla vigilia di questa partita. Io ho soltanto detto che il Milan è una grande squadra e poi nient'altro. Cioè, io sto bene a Roma, non vedo perché direi voglio andare via o l'anno prossimo vai di lì o di là. Io sto qua, ho un contratto fino al 2011, non ci sono nessun problema e nessun dubbi. E questo era Mexes. Poi sentiremo più tardi Spalletti, non volevo far attendere troppo un ascoltatore già in linea da Torino da tempo, che è Walter, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Sì, io sono un tifoso granata da tanti anni. Volevo un giudizio sull'operato del presidente Cairo. Non ritiene che voglia fare la Serie A con i fichi secchi? La risposta è molto rapida, sì. Non credo esistano altre risposte, perché dopo un po' di anni di gestione credo che si possa dare. E quindi la risposta è ebbene sì. Sentiamo anche Leonardo, che è in linea da Palermo. Buongiorno. Sì, buonasera dottor Garanzini. Chiedevo un suo parere sul mercato della Fiorentina, perché a me sembra che Vargas non abbia fatto un gran inizio di campionato e soprattutto ci manchi un difensore centrale. Io sono un tifoso della Fiorentina. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, sul mercato, su questa prima parte della stagione, dunque, poi quello che sarà da qui in avanti non lo so. Vargas certamente è una delle delusioni principali, ma non solo nella Fiorentina, calcolando tutti gli acquisti della scorsa estate, perché Vargas sembrava davvero un giocatore, insomma, comunque era stato spacciato per un giocatore di grande valore, in grado di far compiere un salto a un se non a una squadra, a un reparto comunque. Beh, non mi pare che sia andata così per ora, e nemmeno che stia andando in prospettiva. Il consueto ripasso di storia, che cosa è accaduto nella storia dello sport il giorno 14, oggi è 14 gennaio, è affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 gennaio 1979. A New York, John McEnroe vince a sorpresa i Masters, battendo in finale Arthur Ashe. Il talentuoso mancino statunitense riesce anche ad annullare un match point al connazionale e alla fine si impone per 6-7, 6-3, 7-5. Cogliendo il primo successo di prestigio, McEnroe entra così nel club dei grandi. Nel 1979 vincerà 10 tornei, tra cui l'Open degli Stati Uniti, la sua prima prova del Grande Slam, e sconfiggerà Borg a Dallas, scrivendo il capitolo iniziale di una delle più grandi rivalità nella storia del tennis. Vera, vera, verissima e entusiasmante, che per tanti anni polarizzò l'attenzione degli appassionati. Ero in debito di una voce, che è quella di Spalletti alla vigilia di Roma-Sampdoria. Secondo il mio punto di vista, se uno non ci può stare, è bene che vada via. Però poi siamo in tanti lì, ecco, che si fanno le trattative e che si parla di quello che deve essere un progetto da portare avanti. Secondo me la squadra è per arrivare quarto, e se non ci arrivo io sono il primo ad essere imputato. Spalletti è uno di quelli accusati, non a torto, pare mio, di essere spesso abbastanza, come dire, banali, abbastanza routinier. Stavolta non lo è stato, né per l'ultima frase, per questa assunzione di responsabilità, con impegno a pagare pegno, e anche per la prima frase, che era riferita a Mexès e alla sua voglia o alla sua tentazione di cambiare maglia. Vi dicevo del presidente Real, vi ho raccontato ieri che Ramon Calderon, secondo una denuncia di Marca, il quotidiano spagnolo sportivo uscito ieri, avrebbe manipolato l'ultima assemblea generale del club, che aveva effettuato una votazione decisiva a lui favorevole, salvandolo in pratica dalla possibilità di una di un avvicendamento al vertice del club. L'accusa di Marca era che Calderon avesse ammesso a questa, gli uomini di Calderon avessero ammesso a questa assemblea di votanti, di soci, gente che socia non era. Ora, Calderon ha reagito duramente, non sappiamo come siano nate queste accuse, non c'è stato alcun infiltrato, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo pare stia saltando fuori dei filmati, anche perché, insomma, eravamo in uno spazio chiuso, non dovrebbero essere immagini impossibili da esaminare, in cui effettivamente c'erano alcuni volti sconosciuti tra i soci del Real Madrid, non solo, ma il volto di uno che sembrerebbe essere un socio invece dell'Atletico Madrid, e questo credo che, se dimostrato, aggraverebbe ulteriormente la situazione societaria del club madrileno. Sandro ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Senta, io non sono un tifoso di calcio, la sento occasionalmente. Sì. Però prima ho sentito una cosa che mi ha colpito. Lei, parlando di Vieri, ha detto che questo signore era andato in depressione perché ha avuto una buona uscita di 8-9 milioni di euro. Ora io dico che non so se era la sua o una battuta o no, ma parlare e dedicare così tanto tempo al calcio e a persone che hanno questi guadagni mi sembra un po' esagerato. Io non faccio altri commenti, penso che di calcio si potrebbe parlarne un po' di meno. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei, Sandro, ma non ha che da sintonizzarsi altrove, o comunque non credo, è un libero accesso quello a qualsiasi mezzo di informazione, per la TV c'è il telecomando, sia per accenderla che per spegnerla, perché per cambiare canali. Mi pare che da qualche tempo funzioni grosso modo per la radio, i giornali si possono acquistare o meno, e quindi mi pare che la sua libertà sia ampiamente rispettata da questo punto di vista. Quella di prima su Vieri era una battuta, non è una battuta che Vieri abbia denunciato invece di aver sofferto di depressione a causa del trattamento che l'Inter gli riservò, e aggiungo che purtroppo non è una battuta, non è stata una battuta quella di Vieri, perché c'è gente, qualcuno mi ha scritto che non si ironizza sulla depressione perché è una malattia seria. È proprio per quello che secondo me nessuno nelle condizioni di Vieri dovrebbe avere il diritto di chiamare in causa la depressione per vicende legate al calcio di quel livello e di quelle retribuzioni soprattutto. Alessandro, provincia di Ancona, buongiorno. Dottor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Volevo sapere un suo giudizio riguardo il giocatore Cossu del Cagliari per la Juventus, riguardo il calciomercato, perché sono stato entusiasmato dalla prestazione di domenica contro l'Inter e dalla sua personalità. vista la giovane età della Juventus, volevo sapere se anche lui poteva fare a caso. La ringrazio e buonasera. Buongiorno a lei, Alessandro. Cossu, lo dicevo ieri, già anche ieri l'altro, probabilmente è stato il giocatore che ha impressionato di più la sera di sabato, perlomeno a me. Lui e Biondini in particolare, nel senso che conoscevo già Conti. Io non gli auguro di finire alla Juventus e gli auguro di continuare a giocare nel Cagliari almeno ancora per un po' di tempo. Perché? Perché così nel Cagliari gioca e nella Juventus invece non giocherebbe. Il discorso che faceva prima con l'altro ascoltatore, con Paulsen, mica Paulsen, Zanetti, mica Zanetti. Io ammiro molto, se c'è un giocatore che ammiro è Daniele Conti del Cagliari, perché è secondo me un eccellente giocatore. E dato che non posso pensare che tutti gli osservatori e i dirigenti sportivi italiani siano strabici, io pur non sapendolo con certezza, immagino e sono abbastanza convinto che quello di giocare nel Cagliari sia proprio una scelta professionale che ha fatto Daniele Conti, e cioè di fare di avere una maglia in linea di massima assegnata stabilmente nel Cagliari anziché averne una con un numero più alto. Una volta si diceva così quando c'erano i numeri di panchina, adesso non è più attuale, insomma, anziché fare il rincalzo o comunque l'alternativa in una squadra di altro nome o di altro rango. Io nei panni suoi preferirei giocare. Daniele Conti la pensa così e già mi piace molto come giocatore, mi piace ancora di più come persona per questa sua scelta. Mi pare che meriti una stima ancora superiore. La UEFA ha raggiunto, vedo Deborah Rosciani di là dal vetro, e allora questo mi ispira una notizia economica, perché vedo che la UEFA ha raggiunto un accordo con UniCredit che sarà partner ufficiale della Champions League per il ciclo 2009 e 2012 e per la Supercoppa UEFA 2009, 2010 e 2011. Notizia già data, mi sta dicendo Deborah Rosciani, mi sta confermando, ma data evidentemente in altri ambiti. Questo è un ambito sportivo, è una sponsorizzazione che riguarda la Champions League. Tocca ancora ad Andrea da Pordenone, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. La ricordo con nostalgia quando parlava di calcio mangiando pane e salame un po' di anni fa su Rai 3, se non sbaglio, in seconda serata. Quelle erano trasmissioni veramente da seguire. A parte questa piccola parentesi, volevo e a parte il fatto che Deborah Rosciani nel frattempo ha aperto l'interfono e mi ha comunicato che il titolo di Credit sta andando molto male, non so se è legato questo deficit, questo proprio, questa discesa, se è legato alla sponsorizzazione della Champions League. Mai dire mai, perché escluderlo? Le battute si sprecano parlando di Unicredit del momento, comunque è meglio parlare d'altro. Io volevo un suo giudizio sulla situazione dell'Udinese, che qui noi, io sono di Pordenone, in Friuli definiamo un po' grottesca, perché tutti ci dicono che la squadra è forte, forte, forte, che il tecnico è preparato, però non si riesce più a cavare un punto, oppure si fa una fatica assoluta. Andrea, l'ho chiesto prima a Galeone nella prima parte del programma, e Galeone non è certamente il tipo che si tira indietro se c'è da una volta che accetta di partecipare ad un programma, a maggior ragione se di quel programma si fida, non è certamente il tipo da tirare indietro le parole, no? da tenersele per sé. Ha detto che lui stesso, l'ha detto testualmente mezz'ora fa, che lui stesso non sa spiegarselo, non capisce, c'è stato qualche infortunio di troppo, qualcuno ha dovuto giocare troppo e adesso in riserva, ma insomma non è riuscito ad andare al di là di questa analisi. Significa che non è facile effettivamente una spiegazione. Conti, mi informa Flavio Soardi, al Cagliari dal 99, ha giocato 224 partite nel Cagliari. Insomma, io credo che in questi 10 anni qualcuno si sarà accorto che avere un centromediano metodista discretamente atipico, ma insomma, ma molto presente sempre nel vivo del gioco, i tempi, gli inserimenti, eccetera, quella vaga eleganza alla Falcao, adesso senza esagerare perché Falcao era Falcao, ma insomma qualcosina ricorda nelle movenze, in qualche tempo di inserimento, eccetera, una regia mobile, intelligente e direi anche discreta, senza mai la pretesa di aver sempre il pallone lui. Io credo che qualcuno se ne sarebbe accorto. Secondo me Conti sta bene, o tutti sono davvero, o l'incompetenza regna davvero sovrana nel calcio italiano, oppure Conti sta particolarmente bene a Cagliari. Comunque in una società in cui, per carità, nessuno, il posto non te lo garantisce più nessuno, a meno che tu non ti impegni seriamente. Però impegnandosi seriamente, lì almeno il posto ce l'ha, altrove non è detto. Ecco perché dicevo che Cossu potrebbe fare il salto di qualità subito oppure aspettare nel frattempo divertirsi a giocare un po' di più. Grazie a Flavio Suardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, ci sentiamo domani.